Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi presenta tre interviste. La prima ad opera di Morena Moretti con Martina Fermani dell'Ecomuseo di Villa Ficana di Macerata, con le importanti iniziative didattiche del settore. La seconda con Chiara Rapacci, disegnatrice, illustratrice, scrittrice e tanto altro, ai microfoni di William Piana con i suoi amori sfigati. La terza ancora con Morena Moretti e questa volta è Claudio Ferracci, fondatore della più grande biblioteca di fumetti in Italia, con tutte le difficoltà ma anche le potenzialità di una grande passione e di tanto volontariato. Dopo lo stacchetto musicale, la parola a Martina Fermani dell'Ecomuseo di Villa Ficana di Macerata. Martina Fermani, che è la coordinatrice dell'Ecomuseo di Villa Ficana. Villa Ficana, ricordiamo, è un borgo proprio accanto a Macerata. Sta ospitando il museo una mostra che è 3 anni di storia d'Italia, che è stata realizzata dal CRAP. E a partire da questa mostra è nato anche un progetto con le scuole di Art Mail. Raccontaci un po' questa esperienza e come sta procedendo, perché mi pare sia partita già da tempo. L'esperienza, diciamo, che portiamo avanti con la mostra di Rodari, in contemporanea quasi alla mostra di Rodari, un'attività didattico-creativa pensata per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie di Macerata. Abbiamo visto che affiancare magari a delle esposizioni, a delle mostre, a delle nostre attività, delle attività pensate specificatamente per le scuole, solitamente funziona un buon connubio sia per portare, diciamo, visitatori che per far conoscere quello che proponiamo, le esposizioni che proponiamo. E abbiamo pensato all'arte postale perché comunque è una forma d'arte libera, non è discriminante, chiunque può inventarsi e realizzare un'immagine, un disegno, un collage su uno spazio minimo che è quello di una cartolina, che appunto diventa arte postale nel momento in cui viene affrancata e spedita. In questi giorni stanno già arrivando, ne sono già arrivate molte, hanno aderito tante scuole dell'infanzia e della primaria di Macerata, abbiamo, diciamo, ricevuto l'adesione all'incirca per 750 ragazzi. Quindi dovrebbero arrivare 750 cartoline, più o meno, che poi verranno esposte dal 1 marzo fino al 24, giorno di chiusura della mostra, saranno esposte insieme alla mostra del Pioniere di Rodari. Quindi il primo passaggio è stato la conoscenza del Pioniere di Rodari, quindi attraverso forse delle visite al vostro museo. Allora, le visite più che altro avverranno dopo. Diciamo che il progetto è stato molto molto libero per le scuole, proprio per la difficoltà che hanno anche a fare le uscite, e quindi abbiamo preferito magari farli venire dopo per vedere anche le loro cartoline esposte, piuttosto che fare 2 uscite, che sarebbe stato complesso. Quindi ogni classe, ogni insegnante ha scelto delle poesie, dei lavori di Rodari, e su quello i ragazzi hanno lavorato, creando, poi realizzando un'immagine che secondo loro era quella più interessante per raccontare appunto la storia che avevano ascoltato. Voi avete esposto in questo momento, oltre alla mostra 3 anni di storia d'Italia che riguarda la storia della Resistenza, che è stata appunto scritta da Rodari, avete anche organizzato di recente questo carnevale nel Pioniere e avete esposto anche alcune copie proprio del giornalino illustrato. Come avete proceduto? Ci piace molto, quando facciamo dei lavori, delle attività, ci piace collaborare con altri enti, con altre associazioni del territorio. In questo caso, avendo qui a Macerata un museo molto bello, molto interessante, che è il Museo della Scuola Paolo e Ornello Ricca, abbiamo chiesto alla referente, alla coordinatrice del museo, visto il loro immenso archivio, se avessero appunto delle copie del Pioniere. E così è stato, abbiamo trovato queste copie che ci sono state gentilmente concesse e che sono esposte insieme alla mostra, proprio da noi. e da lì poi è stato fatto anche tutto un lavoro di ricerca per promuovere sui social il lavoro, la mostra, per raccontare un po' quello che il visitatore poteva trovare venendo a visitare la mostra. E quindi partendo dalle copie cartacee e poi andando a vedere anche gli altri lavori, gli altri pionieri, è stato fatto anche quello sul carnevale, raccontato un po' come il pioniere proponeva la realizzazione delle maschere di carnevale. Ecco. Quelle dell'epoca che alla fine sono ancora attuali, evidentemente, almeno in modi come riprodurle. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, ci sembrava carino, insomma, far vedere appunto che quello che si raccontava qualche anno fa è comunque di attualità, magari con altre immagini, con altri personaggi, però la creatività e la maniera di creare è sempre quella. Quindi l'ultima data per questa mostra è il 24 marzo. E farete un'iniziativa di chiusura? Stiamo organizzando, sì, ci stiamo lavorando in questi giorni, un evento per il 23, un piccolo evento per il 23 di chiusura, ancora non vi so dire, diciamo, i particolari, però li troverete sicuramente sul nostro sito a breve, appena ecco riusciremo a organizzare il tutto. Ti chiedo anche sull'Ecomuseo di Villa Sicana, per far capire anche chi ti ascolta, questo nome Ecomuseo, da che cosa deriva brevemente? L'Ecomuseo innanzitutto è un museo un po' particolare perché è un museo fatto dalla comunità, quindi non ritroviamo un palazzo con un'esposizione d'arte interna, quindi quadri piuttosto che sculture. Il nostro poi è ancora più particolare perché racconta un territorio, un piccolo territorio che è appunto il borgo di Villa Sicana, che è un borgo nato alla metà dell'Ottocento ed è costituito da case fatte in terra cruda e paglia. Quindi è un museo che è stato voluto dalle persone, da chi ci vive, da chi è tornato a viverci nel tempo, da quelli che sono gli abitanti storici, perché è comunque un borgo appunto ottocentesco, vincolato dalla sovrintendenza ed è l'unico borgo di case in terra e paglia tutt'oggi, ad oggi esistente nella penisola italiana. Quindi è una particolarità molto importante sia a livello storico che architettonico per la città di Macerata, ma non solo. Sì, non solo, perché ho visto che voi comunque anche attualizzate attraverso anche degli architetti proprio questo tipo, questo modello di costruzione di terra, e che lo proponete anche fuori e avete dei progetti anche all'estero. Noi siamo un centro di documentazione, un archivio, diciamo, l'Ecomuseo è un archivio in quanto, diciamo, luogo da poter visitare per capire, per conoscere le tecniche costruttive in terra. Noi poi ci affianchiamo all'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, che è un'associazione sarda che riunisce comuni italiani ed esteri che hanno al loro interno, che valorizzano al loro interno architettura in terra cruda, e organizziamo anche con loro, col comune di Macerata, diverse attività di promozione e di divulgazione sull'architettura in crudo, perché comunque diciamo, la terra è un materiale con cui si costruisce da sempre e che negli ultimi anni, parlando appunto di architettura sostenibile, è stato e viene tutt'oggi rivalutato e utilizzato in tantissimi modi. Quindi noi partiamo dalla storia per raccontare poi anche un po' il futuro e le modalità nuove con cui la terra cruda può essere utilizzata e sviluppata. Questa terra è la mia terra, anche se è cambiata già un bel po'. Sembra un albero piantato, ma nessuno può sapere dove sto. Un microfono e un pennello, le mie tasche sono piene già così. È con quelli che vi mando cartoline da qui. Questa terra è la mia terra, ce l'ho sotto le unghie pure io. È rotonda ed è stupenda, e pensare che c'è chi la butta via. Io mi butto dentro al fuoco, non è mica sempre un gioco, ma non posso fare meno di così. È così che le ho volute le mie cartoline da qui. Con Chiara Rapaci, riduce del primo per la satira di San Giovanni in Persiceto, incontriamo il fascino dei suoi amori sfigati. Chiara Rappaccini. Buongiorno Chiara. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato, eccomi qua. Eccoci qua, San Giovanni in Persiceto, che sono state, oltre che per il meritorio premio della satira, anche qualcosa che ha portato una tua coerenza artistica che hai sottolineato. Ricordo che Chiara è illustratrice, scrittrice, disegnatrice, ha mantenuto da subito una continuità artistica legata a tutto ciò. Ed è stato, hai detto, assolutamente un percorso naturale, non qualcosa che ha voluto distinguere o distaccare. No, no, è stato tutto molto naturale. Ce ne puoi parlare, Chiara, di tutto ciò? Tu stai dicendo il fatto che io abbia fatto vari tipi di, insomma, di espressioni artistiche. Certo. Sì, sono, diciamo, è una cultura nostra molto italiana che distingue sempre. Se uno fa l'illustratrice non può fare l'autore, se uno fa le vignette satiriche non può fare un romanzo. È una cosa che io combatto sempre anche come professore all'UIED con i miei studenti, che non esiste assolutamente una divisione di linguaggi. Nel mio caso io sono nata illustratrice, poi mi stufavo di illustrare testi altrui perché mi venivano in mente dei testi, allora sono diventata autrice completa per bambini. Poi però mi piaceva la satira e allora mi sono messa a fare le vignette. Poi però ho abbandonato momentaneamente il mondo dei bambini perché volevo scrivere per adulti, ma sono anche designer, decoratrice di interni, muralista, cartoni animati. Tutto questo, alcuni dicono troppa roba e io dico no, è la stessa cosa declinata in vari modi. Certo, in diversi linguaggi, sono esattamente d'accordo. E oltretutto, quando parliamo di Chiara Paccini, vediamo immagini che conosciamo per diversi canali di diffusione, che è la collana di Amori Sfigati, che oltre a farci ridere ha fatto anche molto riflettere. E mi sembri una persona assolutamente, come posso dire, certo, dotata di una grande ironia, ma anche assolutamente, così, non voglio dire serena, che magari è una parola eccessiva. No, sì, però, quella è troppo. No, esatto, quella è troppo, quindi mi limito a dire, ma com'è nata l'idea di Amori Sfigati? Ecco, perché è molto azzeccato, però lo vedo con un cinismo, se vogliamo, che magari non è esattamente con un contatto immediato. Dico, ma come? Ah, è lei quella di Amori Sfigati, ma come? Dunque, allora, Amori Sfigati, cos'è Amori Sfigati? A parte che io dico, siccome il mio libro parla anche molto del mio rapporto con Mario Monicelli, che è stato l'uomo della mia vita, io dico che l'amore con lui è stato in parte un amore sfigato, quindi di nuovo troviamo un legame tra le due cose. Le vignette le ho fatte la prima volta lavorando per Salani, che mi era venuto in mente di fare un cofanetto di situazioni disegnati di rapporti d'amore che non funzionano ma che fanno ridere, quindi erano come delle carte, non da gioco ma dei pezzi di carta che presentò Elio delle Storie Tese. Mi sono andata in giro con Elio con questo cofanetto e lì mi misi a disegnare anche per il web delle vignette che riguardassero dialoghi tra coppie che non funzionavano, e questo diventò un blog ed ebbe un successo. Ora abbiamo 300.000 followers e è un'anima. Anche quella è una delle mie anime, ma sì, sono tutte legatissime. Sì, è una forte ironia, se vogliamo. A me piace tantissimo, tra l'altro, anche perché alla fine, se un amore sfigato funziona, anche se vogliamo, sì. Hai capito? È questo che porta a fare giro tondo, che è un messaggio che ho letto nel tuo ottimismo, nell'aspetto positivo, sì. Sì, che, e poi è un amore sfigato ma funziona, e quindi è questo alla fine. No, che... ma io distinguerei tra gli amori sfigati, sono il 99%, virgola 9%, e cioè chi ha coscienza di vivere una coppia omosessuale, etero, quello che gli pare, che è sfigata ed è cosciente e ne ride, è una coppia meravigliosa. Sì. Guai a coloro che sono le coppiette felici, che tutto vada bene, non analizzando mai che anche il loro è un amore sfigato, quindi noi sfidati coscienti vinciamo, ecco. Sì, ti manderei un caloroso abbraccio perché a distanza, perché è esattamente anche il mio pensiero, quindi è probabilmente il pensiero di tante ascoltatrici e tanti ascoltatori. Sì, ho solo donne io, pensate voi maschi che i miei pensate un po' 85% femmine. E invece parlando del libro, che anticipazione invece? Allora, il libro Mio amato Belzebù è la storia della mia vita, di una ragazza di giovanissima di 19 anni che lascia Firenze, la mia città, per seguire Mario Monicelli, per seguire, che ho conosciuto su Amici Miei a Firenze, e da un mondo di ragazzi 19enni, politica, femminismo, felicità fiorentina, io vengo nel libro, dico, trascinata da un carro di barbari che come si dice, che conquistano Firenze. Questo era il cinematografo allora, una ventata di follia per noi fiorentini. Seguo il carro dei barbari, seguo Monicelli, con lui starò 35 anni, avrò una figlia che adesso è grande. E questo è il racconto di una ragazza che ha 40 anni di meno di Monicelli, che ha 50 anni di meno spesso di tutto il grandissimo cinema italiano e mondiale che io incontro, Mastroianni, Vitti, Wulman, Polanski. Io conosco e frequento tutto il mondo del cinema. Che cos'era visto dagli occhi miei? Come se metti una telecamera in mano a un bambino, un ragazzino, sì, che si trova in un mondo di mostri sacri, ma anche mostri. Quindi non è un libro solo esaltatorio dei grandi, ma anche di come io avevo paura. Questo è un po' il tema del libro. Nel ventaglio di ispirazioni penso che tu possa fare anche la conduttrice radiofonica, visto... Dunque, io l'ho fatto... Non avevo dubbi, guarda un po', non avevo dubbi. No, lo nomino non per concorrenza, ma io ho fatto con RDS gli oroscopi sfigati notturni. Ecco. Vedi, dove tutto andava male, tutti felici di sentirsi dire degli oroscopi orrendi, dove tutto finiva male in amore, quindi conosco i tempi radiofoni. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventato. Grandi, grandi, grandi le mie pene, non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Sono convinte che la vita è tutta lì. E infine con Claudio Ferracci andiamo a Perugia a conoscere meglio la Biblioteca delle Nuvole. Bene Mario, ti chiedo questo, voi avete avuto nell'ultimo anno varie difficoltà sul versante logistico del vostro museo, che tipo quali sono le possibilità per una realtà come la vostra, ma come ce ne sono appunto tante in Italia, tu ne citavi alcune, di ampliare, di avere dei luoghi adatti anche da un punto di vista proprio anche diciamo climatico, logistico, quali risorse anche istituzionali, di quali risorse può avvalersi un'associazione, una APS così importante come la vostra? Guarda, posso risponderti sulla base della mia esperienza, sì. Come APS lo siamo solo dal 2021, quindi conosco alcune cose ma ancora ne sto conoscendo di nuovo. Secondo me intanto i bandi, partecipare di più ai bandi e avere ovviamente un alto numero di soci, perché ormai quasi tutti i bandi prevedono che il 10 o il 20% lo metta l'APS, gli altri sono a fondo perduto ma il 20% lo mette l'APS, sì. Quindi quando fai un bando da 50.000 euro devi comunque mettere un fondo. Devi comunque metterne, sì. 10. Ecco, una di queste difficoltà nostre è proprio questa, noi non abbiamo un alto numero di soci, per cui certe volte siamo spiazzati da questo 20% che non è a fondo perduto. Mentre nel rapporto con l'amministrazione bisognerebbe trovare l'amministrazione che ha per esempio dei locali che non usa, anche se questi locali avessero bisogno di lavori, piccoli lavori, intesi lavori che non vengono più di 5-6.000 euro, e affidare questi locali magari con una manifestazione di interesse alle associazioni che fanno i lavori e quindi verrà assegnata a queste associazioni. Ecco, questa può essere una possibilità. Questa noi la stiamo cercando di sfruttare qui nella nostra città. Non so se ci riusciremo, sono sincero, perché il privato ovviamente significa costi di affitto, significa comunque non sempre trovi il locale che serve a te, oppure lo devi trovare ad alti costi. E ripeto, e torniamo al discorso di prima, se non hai 100-150 soci che ti garantiscono un fondo cassa sostanzioso, non puoi affrontare un progetto del genere. Ecco, perché quindi tu stai dicendo che una realtà come la vostra si avvale prevalentemente del contributo di soggetti privati. Voi poi avete anche tentato strade, anche andate bene, come dei crowdfunding o anche il 5 per 1000, a cui penso che forse accederete, non so quando. Sì, guarda, però diciamo più che altro, dimmi. Finalmente accediamo al 5 per 1000 da luglio. Sì. Purtroppo a luglio già molte avevano fatto la dichiarazione, certo. Di modello 30, però ci sono molti che stanno facendo il modello unico, i professionisti, avvocati, ingegneri, commercialisti, quindi loro possono ancora indicare il 5 per 1000 per la nostra situazione. Noi abbiamo il codice fiscale, più volte sui social abbiamo pubblicato l'immagine del nostro nuovo bigliettino da visita con appunto il codice fiscale, quindi chi vuole ne può approfittare e sarebbe un aiuto sostanzioso. Per esempio. Allora ti faccio una domanda invece più generale sulla vostra BAM, no? Biblioteca, archivio, museo del fumetto, che è dedicato tra l'altro a Luigi Bernardi, che noi anche dedicato a Luigi Bernardi in particolare, ma sì. Dedicato a Boschi, un altro anche caro amico, anche altri due amici che sono stati soci e collaboratori dell'associazione in questo senso, però fondamentalmente sarà intitolata a Luigi Bernardi, sì. Che noi conosciamo perché è di Bologna, ma quanto materiale avete? Voi avete anche tavole originali, avete originali digitali, avete fumetti di tutti i tipi, insomma una panoramica generale su che allora, cosa si può trovare nella vostra biblioteca? Allora, abbiamo almeno 12.000 fumetti, almeno 12.000 fumetti sicuro, probabilmente sono di più, perché comunque sono messi in circa 200 scatole, sono scatole numerate e anche pesate, perché comunque qualsiasi posto dove andiamo dobbiamo fare attenzione a quella che è la normativa antincendio e quindi dobbiamo stare sotto un certo livello, se lo superiamo dovremo affrontare determinate pratiche che ovviamente non sono nulla di eccezionale, però sappiamo bene insomma a cosa andiamo incontro. Quindi come fumetti almeno 12.000 fumetti di tutti i tipi, si va dai Lancio Story, Scorpio e Monello, alle riviste a fumetti degli anni 80, quindi Corto Maltese, Alter, Linus, dei ragazzi, si va a tanti fumetti americani, un po' di manga, assolutamente, Cappellino, mancano i Bonelli un bel po', Fratex, Zagor, tutto questo andando. Poi anche dei fumetti in inglese, per esempio, qualche cosina di fumetti in francese, graphic novel un bel po', e continuano ad arrivare tra l'altro donazioni. Al momento noi abbiamo dato uno stop momentaneo, ma ci sono donazioni che vorrebbero arrivare appena immagino. E poi hai detto bene, abbiamo 50 opere originali cartacee, poi abbiamo le nostre stampe, le cartoline, poi abbiamo anche del materiale nostro, tipo non so quante fotografie, saranno più di 2000 fotografie, poster di tutti i posti dove siamo andati, le varie convention dagli anni 90 ad oggi. Ad esempio, posso dirti, a parte poi i fumetti duplicati che cercheremo di cambiare o in qualche modo di piazzare attraverso coloro che che contribuiscono, per esempio, o all'associazione o alla struttura, ad esempio. Ecco, sì, queste cose ci sono. Quindi senza parlare di tavoli, sedie, armadi, immobili, sì. Quindi tutto questo però ci dice che un archivio, biblioteca del fumetto, come altre realtà d'Italia, ma la vostra in particolare, che è molto vivace, ha un senso se viene sempre vissuta e viene utilizzato questo materiale per iniziative di carattere culturale nel presente. Quindi l'idea è gli archivi non si tengono chiusi nelle stanze a prendere muffa. La vostra politica è completamente all'opposto, no? Guarda, perché ti dico anche il motivo. In questo momento stiamo anche facendo un gemellaggio con un'associazione di Forlì. Ma come mai questi legami con l'Emilia Romagna? Sono legami anche, diciamo, dovuti a parentele che io ho con l'Emilia Romagna. Questa associazione a Forlì è una fanzine italiana, associazione culturale di volontariato, e ha come, diciamo, persona più importante, quindi responsabile, Gianluca Umiliacchi. E dagli anni 90 sì, che questa fanzine esiste, che raccoglie tutte le fanzine italiane ed estere. Ora è diventato anche un centro culturale. Siccome comunque Forlì Cesena è un po' periferico rispetto a Bologna, rispetto all'Emilia Romagna, noi abbiamo detto bene, andiamo a gemellarci con quel tipo di realtà. Era facile gemellarci anche con altri, ne avevamo la possibilità. Gemelliamoci con loro che già realizzano una serie di attività. Sì. Per esempio, magari a te sfugge, a molti sfugge, ogni giorno è dedicato a qualcosa. Giornata internazionale di questo, giornata internazionale di quello. Ecco, una realtà come la nostra potrebbe in questi giorni, diciamo, riconosciuti, dire bene, oggi è per la giornata del gatto, ma che fumetti ci sono dedicati al gatto? Quindi un momento di lettura quel giorno per tutti coloro che vogliono sapere che fumetti ci sono dedicati al gatto. Ho detto gatto così per dirne una, ma ce ne sono tante altre. Quell'esempio più importante, per la giornata della memoria, il 27 gennaio, si possono aprire le porte per far leggere a tutti i ragazzi o fare anche degli eventi, degli incontri su tutti i fumetti che hanno a che vedere con la Shoah. Certo. Queste sono le varie cose che si potrebbero fare, a parte i laboratori con i ragazzini. Insomma, mi sembra che ci siano più idee che tempo quasi per realizzarle. Sì, assolutamente sì, guarda, ci sono più idee che tempo. Avremmo bisogno intanto di tante persone in più rispetto a quelli che siamo, anche perché noi siamo una generazione di cinquantenni, no? Mentre invece avremmo bisogno di ventenni. Forse no. Sono i ventenni che mancano in questo momento, sai, in quasi tutte le associazioni, noi ce ne accorgiamo anche a livello locale. Sì. Ventenni e quindicenni ce ne sono pochi nelle associazioni, giovani sempre di meno, purtroppo. Thank you.